Tempo di sport con Carlo Genta. Buongiorno a tutti, mentre saluto Flavio Suardi e Franco Piantarini in redazione, Fabio Cantadori in regia. Oggi sarei proprio curioso di sapere, mi piacerebbe proprio sapere se vi interessa di più, se vi attizza di più il mondiale che sta per nascere, magari Italia-Messico di stasera, il Messico senza i giocatori di lusso, come ha detto Aguirre, l'avete sentito nel giornale radio. Oppure vi attizza di più il mercato che rischia di cambiare mille facce e quasi tutte le panchine. Io leggo una email che ho ricevuto 10 minuti fa. La scrive una ascoltatrice, Monica da Pisa, ed è questa: facciamo i conti in tasca all'Inter con i 16 milioni di clausola rescissoria pagata dal Real. Poi non sono 16 subito, ma come sappiamo la formula è un po' diversa. Però, scrive Monica, l'Inter ha avuto Mourinho praticamente gratis per 2 anni. La Champions ha portato nelle casse nerazzurre più di 100 milioni. A questo punto, che senso ha vendere Maicon per rimpinguare le casse di 35 milioni? La società ne ha davvero bisogno o ha più bisogno del miglior terzino del mondo per continuare a scalare le vette europee? Quando in Champions giocheremo contro il Real, Maicon sarà bene averlo con noi o contro di noi per superare quel turno? Insomma, il gioco vale la candela o bisogna sempre essere pazza Inter? Post-scriptum di Monica: mon Dieu, senza Mu nei post-partita torneranno ad allestire tavole rotonde di noia infinita con le frasi ciclostirate degli allenatori. Mentre saluto Monica, autrice di questa mail, saluto anche Gianluca Di Marzio da Speciale Calciomercato. Ciao Gianluca, grazie. Ciao Carlo, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, la notizia è proprio di oggi, no? Maicon che dice, senza troppi peli sulla lingua mi pare, dichiarazioni riportate da AS: voglio giocare nel Real Madrid, ma che Manchester City, voglio andare là, voglio seguire Mourinho. Ma sai Carlo, di solito delle dichiarazioni che riportano i periodici spagnoli c'è sempre da stare attenti. Io non credo che Maicon abbia detto proprio espressamente che vuole andare al Real Madrid. È chiaro che tra le due, tra Madrid e City, credo che non abbia dubbi. Il problema è relativo al prezzo, cioè l'Inter ha fatto un prezzo per Maicon che, da quello che mi risulta, è di 30 milioni di euro. Domani il Real Madrid avrà un primo meeting, summit di mercato tra Mourinho, Perez, Baldano e compagnia bella. Da quello che comincia a filtrare, più di 15-20 milioni il Real Madrid su Maicon non vorrebbe investirli, quindi se la cifra è quella io credo che Maicon resterà. Se poi invece il Real Madrid deciderà di fare uno sforzo e arrivare ai 30 milioni, a quel punto penso che l'Inter possa davvero decidere di venderlo. Perché lo faccia non si sa, probabilmente non convincono altri aspetti di Maicon, sicuramente non quello tecnico, forse qualcosa fuori dal campo, non lo so, magari Moratti preferisce comunque non portare Maicon ai livelli di Zanetti, di Cambiasso come età nell'Inter, ma preferisce sfruttare adesso la possibilità di ricavare qualcosa, sì, per investirli poi su qualche giocatore giovane. Vedi questo di Regarai, che mi sembra uno dei migliori esterni che ci siano in questo momento in Sud America. Sì, è opportuno sfruttare questa occasione, l'ho detto molte volte, sarebbe opportuno sfruttare questa occasione per svecchiare l'Inter, per girare pagina, per fare qualcosa di nuovo e di diverso, ovviamente di sempre profondamente competitivo. Ho le prime risposte al quesito a monte, ci interessa di più il mercato, scrive un primo ascoltatore via SMS, altri li aspetto anche al telefono. Noi. Ma sì, meno, ma lo so. Per noi, per me, visto che non vado in Sud Africa per fare il mercato, quindi sono contento. E io sono qui a raccontarlo da questo microfono al mondiale, quindi siamo contenti tutti, insomma. 800240024 numero verde per telefonare, ma la mia domanda era quasi pleonastica, quella che ho messo all'inizio, perché che ho posto all'inizio perché so che è così. Solo oggi, caro Gianluca, D'Agostino a Firenze, Fiorentina che rescinde con Prandelli, ufficiale si sapeva, cioè adesso è ufficiale, si sapeva già da tempo. Contatto, ho letto da qualche parte, tra Ibrahimovic e Ancelotti. Il Napoli, si legge in giro, sogna Gilardino, 21 milioni pronti per Gila. Per dire alla Mourinho, caro Gianluca, bisogna distinguere in questo caso tra sogni e ossessioni. Sì, infatti, guarda, io mi trovo a pranzo con il direttore sportivo del Napoli, Riccardo Bigoro. Vi posso assicurare che 21 milioni il Napoli in questo momento non è che non li ha, ma insomma ha deciso in questo momento di non fare un investimento così importante per ora per un attaccante. Quindi io appunto distinguerei proprio i sogni dagli obiettivi concreti. Sicuramente il Napoli lo ha cercato, Gilardino, avrà cercato anche Cardoso, come ha cercato Toni, come ha cercato Curani, insomma gli obiettivi sono sempre stati importanti. Bisogna fare i conti però con la realtà di un budget e soprattutto con la realtà di una rosa che è già comunque molto competitiva, molto forte e che è ancora un mercato ingessato, perché tutti vogliono prima vendere per poi comprare, e certo, vendere oggi in questo momento è assolutamente difficile. Prima ho incrociato Galliani, io mi trovo da Giannino, che poi è un ristorante di mercato praticamente, sì, perché poi passano tutti qui. Galliani mi diceva: una volta Caro Di Marzio le davo notizie su Gullit e Van Basten, adesso mi tocca dirle che abbiamo riscattato la seconda metà di Beretta. Evidentemente il mercato del Milan, ma anche le altre squadre, ruota oggi più su giocatori giovani che non su grandissime idee. Sì, sul Milan. Beretta dell'Albino Lesto è giovane. Sì, no, ma infatti sul Milan circolano nomi per super specialisti o per super voyeur, se vogliamo, del calcio, oppure solo bufale come quella relativa di Ibrahimovic. Ma Ibrahimovic non credo che possa tornare al Milan, perché adesso guadagna 11 milioni di euro al Barcellona, e il Milan si è dato un nuovo tetto ingaggio che è di 4 milioni, quindi io a queste notizie ho imparato, diciamo, a non credere. Che poi Ibra possa andare al Manchester City, perché so che Raiola comunque ne ha parlato con Mancini, ha parlato con la dirigenza del City, magari lo starà cercando di proporre anche al Chelsea. E Mino Raiola è uno che si muove molto bene, quindi si è capito che al Barcellona ci sono un po' di problemi per il giocatore, sicuramente farà in modo di poterlo dar via, ma non credo in Italia, ma penso eventualmente in Inghilterra. Senti Gianluca, ho letto anche da qualche parte che la Juventus avrebbe bisogno di 7 esterni per innescare il gioco dei neri. Sono tanti 7, sono tanti, io penso ne arriveranno comunque 3 o 4. Sicuramente in questo momento la priorità sono gli esterni di centrocampo, perché comunque dietro, volenti o nolenti, c'hai, anche se non sono l'ideale, ma il Sebina, Grigera, Grosso e De Ceglie, e se non vendi qualcuno, beh, è difficile andarne a comprare e a spendere tanto in quei ruoli. Quindi a destra potrebbe arrivare Motta, e sarebbe un investimento comunque tutto sommato non di grandissime cifre. E il problema sono gli esterni di centrocampo, perché la Juve esterni di centrocampo non ne ha. Non avendone andrà sul Krasic, che mi sembra un'operazione abbastanza avanti, su Pepe dell'Udinese, che potrebbe arrivare in un'operazione più ampia con Candreva, con Giovinco a Udine, discorsi che vanno approfonditi, ma Pepe mi sembra una pista molto buona, ma soprattutto prendere anche un difensore centrale, perché con la partenza di Cannavaro, insomma, la Juve ha bisogno di un giocatore importante da affiancare a Chiellini, e credo che sarà Bonucci. Insomma, l'accordo non è ancora stato raggiunto, però Bonucci risponde all'identikit del primo rinforzo juventino. Altri azzurri sul piede di partenza, altri azzurri che si muoveranno magari durante il mondiale? Io penso che Criscito ha qualche possibilità anche lui di andare alla Juve, però alla fine credo che proprio nel giro di Bonucci alla fine sarà, diciamo, sacrificato e rimarrà al Genoa. Pepe, appunto, secondo me andrà alla Juventus. I vari De Rossi e compagnia credo che resteranno. Pazzini e Palombo, è chiaro, nonostante le dichiarazioni di Gasparin, che dice noi li vogliamo tenere, però vedrai che fino al 31 agosto, soprattutto dopo il preliminare, perché secondo me il mercato della Sampdoria, certo, sarà un mercato che si potrà veramente decidere dopo il preliminare di Champions. Certo, com'è ragionevole che sia. Lo passa, sai, allora Pazzini e Palombo te li puoi permettere, se non altrimenti lo passi, no, altrimenti chiaro, Pazzini e Palombo a certe cifre difficilmente puoi permetterti di tenerli, insomma, ecco. Gianluca, vorrei chiederti un'opinione personale invece sull'Inter, ma cedere Milito secondo te in questo momento sarebbe una follia o un affare? Guarda, ieri dall'Inter mi arrivava un messaggio, no? Se il Real Madrid vuole davvero vuole davvero Milito, ci devono dare 30 milioni più Higuain. Beh, insomma, 30 milioni più Higuain la faccio anch'io, quella di Milito, sì, altrimenti non la faccio, e mi tengo il miglior attaccante che in questo momento c'è probabilmente al mondo sotto rete. Quindi io non credo che loro abbiano intenzione di cedere Milito. Ha firmato un contratto l'anno scorso comunque lungo, magari non sarà remunerativo per lui come ha dimostrato con i suoi gol, ma se l'Inter vuole accontentare Milito e dandogli qualcosina in più per gli anni che verranno, credo che non avranno problemi a sedersi e a trovare una soluzione. Sì, anche se poteva chiedere quei soldi in un momento diverso, però queste sono altre storie. Per chiudere, Benitez con Mascherano e Gerrard all'Inter, come ho letto oggi sulla Gazzetta? A Gerrard mi dicono che non abbia un grandissimo rapporto con Benitez, per non dire proprio che non si sopportano, quindi sì, ecco, se si deve portare un giocatore non credo che si porti Gerrard. Mascherano secondo me è molto simile a Cambiasso, quindi non so se sinceramente se è il giocatore giusto, però è chiaro che ringiovanirebbe un po' quel tipo di reparto. Intanto bisogna capire se arriverà Benitez, Carlo, perché non è la primissima scelta, cioè l'Inter non credo ci sia proprio così convinta di andare su Benitez. Se sarà libero, come sembra, diventerà un candidato, magari poi sarà anche più importante perché gli altri sono impegnati, altrimenti io credo che un tentativo ancora per Hiddink verrà fatto, perché l'unico allenatore che è stato veramente chiamato dall'Inter 20 giorni fa è stato Hiddink. Capello pare si sia proposto lui, sì, sfruttando forse anche questo discorso per poi togliere la clausola. Guardiola è un sogno ma destinato a rimanere tale, quindi insomma mi sembra che la linea sia tentare un ultimo assalto a Hiddink, altrimenti insomma Benitez, anche se non sono tutti convinti. Senti, prima di lasciarti al caffè, non è che Bigon tra primo e secondo ti ha detto che compra il Napoli poi alla fine? No, ti ho detto, soldi non te l'ha detto. Ce ne sono pochi. Secondo me Napoli andrà su nuovi ansi, su nuovi Davessi, alla fine è un po' una strada che stanno prendendo, vedi, anche squadre più importanti del Napoli, tra virgolette, come il Milan. Insomma, se il Milan annuncia oggi il riscatto della meta di Veretta è perché evidentemente il calcio è cambiato, allora forse il Napoli, trovando i nuovi ansi che l'Avessi, potrebbe anche trovare la strada nuova, diciamo, del calcio, anche perché vedi, l'Arsenal ci insegna all'estero che non bisogna sempre andare a prendere i nomi, no? Si possono fare dei grandi campionati anche con dei giovani, e il Napoli potrebbe magari essere l'Arsenal italiano. Ti giro un messaggio, Michele da Valenza: adoro Gianluca Di Marzio, digli che è il numero uno del mercato. Grazie, poi lo adoro Michele, perché è tifoso del Napoli. Vedi, grazie Michele. Senti, saluta mio amico Mario Boni, quando lo vedi. Va bene, grazie, va bene, Gianluca. Grazie a voi, ciao. A presto, ciao. Grazie Gianluca Di Marzio. Dopo Gianluca Di Marzio adesso è il momento degli ascoltatori. Mentre Francesca Schiavone ha tenuto il servizio nel primo game semifinale a Roland Garros, al servizio 1-0 Schiavone, dunque al servizio Dementieva 40 pari, quindi magari anche aria di break, ve lo racconterò tra poco. Franco, provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, secondo me, io so già chi vincerà la prossima Champions League, perché la vincerà il Real, perché giocherà in 36, visto tutti quelli che compra. Ma è quella cosa che vorrei che lei mi spiegasse, come mai nelle altre squadre campioni d'Europa tutti volevano andare, dall'Inter tutti volevano andarsi, da Eto'o a Milito, no, a Schneider. Non credo. Sono chiacchiere di corridoio a questo punto. Guardi, secondo me l'unico giocatore su cui ci sarà veramente il mercato in uscita è proprio Maicon. Quella di Milito, sappiamo benissimo, era un'uscita intempestiva e infelice per chiedere un ritocco dell'ingaggio che poteva chiedere ottenere in altro momento, in altro modo. Schneider ha detto che resta senza alcun problema. Eto'o ha dichiarato in un'intervista che l'Inter è un club dal quale non si va via, quindi tutto il resto mi sembra abbastanza fuffa, mi sembra abbastanza aria fritta, quindi non penso proprio che ci sarà grande mercato in uscita dall'Inter. Certo, ripeto, sfruttare eventualmente i venti del mercato per ringiovanire la squadra, per svecchiare un po' la squadra, per cambiare qualcosa anche in funzione dell'allenatore che verrà, potrebbe essere mica delittuoso, secondo me. Per quello che rimane la mia domanda un po' provocatoria, ma Milito, se arriva al Real Madrid 30 milioni più Higuain, come diceva prima Gianluca Di Marzio, proprio no? Parliamone. Gianluca, provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno. No, io sono milanista, però io quello che non capisco è... Quindi starà stappando metà di Beretta, ha detto Galliani, no? Riscattata la metà di Beretta. Sì. Io quello che volevo dire è Maicon, quanti anni ha? 30? Sì, una trentina. Allora, si vende 28, secondo per me, la precisione. Senza fare tante polemiche, il miglior terzino del mondo, che a mio avviso non lo è uno dei più forti terzini al mondo, ma non il più forte del mondo, ma lo vende l'Inter e ringiovanisce la squadra. Come dovrebbe fare? Io sono milanista, quindi parlo da parte opposta, però io dico, come si fa a non vendere un giocatore che vuole andare via? Va via e basta. Sì. Come ha fatto in modo, secondo me, molto sgarbato Mourinho, verso i tifosi, verso chi comunque va allo stadio e lo paga. Allora, farei un distinguo molto sgarbato, lei ha ragione, nei tempi e nei modi. Sulla sostanza non ho molto da eccepire. Non sono d'accordo. No, beh, ma il mondo è bello perché è vario, non c'è bisogno di essere d'accordo. Io, secondo me, Mourinho, dopo aver attraversato per due anni il campionato, che non è il più difficile, non è il più bello, è certamente il più peloso, il più difficile fuori dal campo, quello sì, padronissimo, aver vinto tutto, padronissimo di essersi stufato e di andare comunque in un club che deve rifondare, che penso che per qualunque professionista sia una, abbia una grande attrattiva come il Real Madrid. Non ci vedo nulla di peccaminoso in questo addio di Mourinho, se non ripeto, nei tempi e nei modi, perché quelli sono stati sgarbati, la parola che ha usato lei è corretta. Quanto a Maicon, secondo me il miglior terzino del mondo sì in questo momento, poi vediamo cosa dice il mondiale. 28 anni non sono molti, se ci sono le richieste può essere un affare. L'Inter l'anno scorso ha fatto un grande affare con Ibrahimovic, se poi fosse vera quella vocina di qui sopra su Milito, perché no? Ripeto, parliamone, perché anche questo potrebbe essere un grande affare, insomma. Giovanni, grazie Gianluca. Giovanni da Palermo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Una considerazione su Mourinho. Io sono un interista e grande stimatore di Mourinho. Ultimamente nel riflettere, nel pensare al possibile suo successore, mi rendo conto che in Italia ci sono moltissimi allenatori bravi, come lo stesso Mourinho dice. Poi c'è una caratteristica che ha distinto questo allenatore, cioè la sua capacità di motivare il gruppo, la sua capacità di concentrare il gruppo nei momenti decisivi, e guardando un pochettino attorno inizia forse... La sento male. La sento male, Giovanni, non ho capito il senso della domanda, mi spiace, magari proveremo a ricollegarci. 800 24 0024 il numero verde, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Al Real sono pazzi per Milito, 30 sacchi più Higuain subito, scrive Davide. Federico, provincia di Novara, buongiorno. Buongiorno a lei e a chiunque ascolti. E niente, anche io volevo intervenire sul discorso allenatore Inter e intervento interessato in quanto tifoso. Noto che ci sta colpendo una vecchia sindrome, quello di non saper bene cosa fare, o meglio, si sta cercando un clone di Mourinho, e questo secondo me limita un po' anche la possibilità di scelta. Perché lei dice un clone di Mourinho? Come? Perché dice un clone di Mourinho? Intendo dire che si sta cercando qualcuno che possa, essere uguale, tale quale allo Special One, dare gli stessi stimoli alla squadra, tenere alta l'attenzione, quindi si cerca qualcuno che sia in grado di ripetere. Secondo me si cerca un allenatore top, perché i nomi sono stati fatti, ma insomma mi sembra anche adeguato questo, no? Da un certo punto di vista sì, ma cercando un allenatore che abbia forse una sua specificità, sapendo che si deve comunque ripartire da lì, si riparte dall'alto, ma si deve creare qualcosa di nuovo per l'Inter in prospettiva. Sì, Federico, prova ad andare da Capello e dirgli che è un clone di Mourinho. Come, poi, scusi? Se prova ad andare da Capello e dire a Capello che è un clone di Mourinho, bisogna chiamare la polizia, Più che da Capello, e forse nella testa di Moratti e nella testa dei... No, ma guardi, ma Federico, secondo me il discorso è molto semplice. L'Inter, giustamente, secondo me, non ha voglia di azzardare troppo e cerca non un clone di Mourinho, perché Iddink, Guardiola, Benitez, Capello sono tutti allenatori che hanno, come dice lei, una loro ben precisa specificità, non sono assolutamente cloni di Mourinho. Più che altro l'Inter cerca un allenatore che conosca bene le strade del calcio internazionale, cerca un allenatore che sappia già come si fa a vincere, sappia già quali sono appunto le strade per arrivare in alto, ma giustamente, secondo me, altrimenti avrebbe preso Mihajlovic. Quello sì, secondo me, sarebbe stato un grosso azzardo per l'Inter in questo momento, mentre Moratti fa benissimo a prendere tempo, perché tanto non gli corre dietro nessuno, adesso c'è il mondiale e tutto sta cambiando, solo la Juventus ha già annunciato l'allenatore praticamente delle grandi. E quindi non francamente non vedo il problema, e condivido invece l'idea di Moratti di andare su un allenatore che abbia già esperienza a questo livello. La ringrazio. A lei. Buona giornata. Grazie. Cosimo Matera, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, parlando sempre di allenatori, io volevo porre l'attenzione su un aspetto. Si ricorda il vecchio allenatore alla Lidom che aveva anche il compito di insegnare calcio? Prese un... prese qualcosa che non sono riuscito ad afferrare perché la linea è caduta, ma ci riproviamo. Cosimo, 800 24 00 24 è il numero verde. Beh, se vendono Milito, leggo gli sms, se vendono Milito solo quest'anno possono strappare bei soldi per un giocatore di 31 anni che non sembra proprio uno attaccato alle maglie. Un attaccato alle maglie non lo so, certamente Milito è un super professionista, è un calciatore, è un ragazzo estremamente intelligente, perché è uno che gioca con una intelligenza tattica non comune. È certo che insomma quest'anno ha fatto la stagione della vita, magari anche replicabile, perché ripeto è un giocatore straordinario, però bisogna fare i conti con l'età. Insomma, è chiaro che se si vuole fare cassa l'anno per vendere, o non fare cassa per mettere i soldi in tasca, ma fare cassa per vendere, per ringiovanire la squadra, per seguire progetti e disegni diversi, il momento di cedere un giocatore così è questo. L'anno prossimo non si sa se questo treno così carico d'oro possa ripassare. Direi che ci fermiamo per la borsa e subito dopo ripartiremo da Agostino da Palermo, dagli altri ascoltatori che vorranno intervenire. 800 24 00 24, numero verde. Non c'è stato break, Schiavone conduce 2-1 su Dementieva, che sta servendo 15 pari con un bel passante di Francesca. Dunque primo set questo semifinale al Roland Garros. Mi sfugge il nesso tra il Porto condannato per corruzione agli arbitri e Mourinho, cui non piace più forse l'ambiente del calcio italiano, e io in questo faccio fatica a dargli torto, insomma. Agostino da Palermo, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Grazie a lei. Io vorrei io sono un uomo che comunque ha visto sempre Mourinho in maniera molto antipatica sin dalla prima intervista, proprio a pelle, di default, no? Cioè una cosa che, vabbè, insomma, poi ho scoperto che comunque era vera questa cosa. Io dico questo, cioè come ha fatto la stampa italiana, i media, a montare un personaggio così incredibilmente, come dire, vuoto poi fondamentalmente, perché non ha insegnato nulla di nuovo al calcio italiano tranne aver consigliato gli acquisti giusti al presidente, e lì siamo presi un po' tutti, insomma. Io credo che tutto sommato, se ci mettiamo, non so, uno come Delio Rossi a guidare l'Inter, vincerebbero 10 coppe di campioni di seguito. Ma poi mi si viene a dire che questo qui era un motivatore, ma il caso Balotelli insegna, cioè cosa ha fatto Mourinho di tanto incredibile per gestire Balotelli? Cosa insegna il caso Balotelli? Insegna che c'è un allenatore che non è stato in grado di gestire una persona. L'ha gestito come gli è apparso a lui. Mi pare invece che il gruppo Inter sia stato quanto di più unito e coeso ci possa essere stato. Quanto al resto mi sembra una banalità dire che bravi tutti, no? Che sarebbe riuscito qualunque allenatore. Degli Rossi è uno splendido allenatore, però alla fine vince uno, perché poi Ancelotti non aveva una squadra inferiore nemmeno come prezzo, se vogliamo mettere in questi termini, all'Inter. Guardiola men che meno, Real Madrid non ne parliamo, ma alla fine vince uno. Troppo facile, banale, semplicistico e quindi sbagliato dire bravi, sarebbero stati capaci tutti, no? Gli ha consigliato gli acquisti giusti e poi avrebbe vinto chiunque. Non sono assolutamente d'accordo, sembra semplicemente una banalità. Quanto a cosa ha insegnato Mourinho al calcio italiano non lo so, ma non, in fondo mi interessa anche poco. Semplicemente io noto che sembra che il calcio italiano sia diventato uno sport un po' per anziani e per bambini. Mi sembra che la fascia di mezzo non sia più così tanto appassionata del calcio, è solo un'impressione la mia, però guardando gli stadi vuoti sono un'impressione con un discreto fondamento, anche parlando con la gente, no? Mi sembra che Mourinho abbia invece portato qualcosa di nuovo dal punto di vista della dialettica, dal punto di vista dell'interesse. Non è stato un personaggio costruito dai giornali, ma eviterei anche qui di scendere nel banale, dire cioè Mourinho ha fatto comodo solo ai giornali. Non è vero, ha fatto comodo, secondo me ha fatto comodo, è stato utile, è stato funzionale, è stato importante per l'ambiente del calcio italiano. Anche per gli stessi allenatori, credo, anche per gli stessi addetti ai lavori, che sono confrontati con un livello dialettico a cui non erano abituati. Gli allenatori italiani, poveretti, sono molto spesso stressati e molto impauriti, no? Per la loro panchina, per il loro futuro, per tutti questi discorsi. Mourinho li ha trascinati ha trascinato forse tutti noi su un terreno che conoscevamo poco e quindi ci ha un po' spaventato. Questa è la mia idea, ma è un'opinione assolutamente personale. Invece vorrei tornare sui fatti concreti andando in Inghilterra da Lorenzo Amuso. Buongiorno. Buon pomeriggio. Cosa succede lì a Liverpool? Succede che il divorzio tra Benitez e Liverpool ormai è una questione, se non di ore, certamente di giorni. Entro domenica Benitez troverà un accordo economico per la rescissione del contratto, questa ormai è una cosa certa. Nelle ultime settimane Benitez ha cercato di capire se ci fossero i presupposti perché rimanesse a Liverpool, che è sempre stata la sua priorità. Lui ritiene che dopo 6 anni comunque il suo progetto non sia ancora esaurito, ha un contratto fino al 2014, un contratto molto ricco. Lui voleva restare, ha chiesto, si è incontrato negli ultimi giorni in diverse occasioni con il presidente Martin Broughton per discutere soprattutto del budget, perché secondo Benitez il Liverpool ha bisogno di almeno 5-6 nuovi acquisti per tornare a lottare per i primissimi posti in Premier League e in Champions League, e quindi va chiesto un budget di almeno 50 milioni di sterline. Una richiesta quantomeno intempestiva per un club che è zavorrato da un passivo di oltre 350 milioni di sterline, insomma. Quindi gli è stato detto che il budget che avrebbe avuto a disposizione era almeno di due terzi inferiore alle sue richieste, perché pare che quest'anno il Liverpool così spenderà al massimo 15 milioni di sterline. A quel punto sono, come dire, venuti meno i presupposti per la permanenza di Benitez. Benitez non voleva però dimettersi, perché appunto ha un contratto ancora di 4 stagioni a circa 4 milioni di sterline, e ha preso in mano la situazione a quel punto il club, che ieri appunto ha presentato questa offerta di rescissione consensuale del contratto. Si parla di una cifra, di una liquidazione che si aggirerebbe sui 3-4 milioni di sterline. Adesso si tratta di capire, la palla adesso passa agli avvocati, sì, nel senso che dovranno trovare un accordo. Cioè, in sostanza, il Liverpool Benitez non lo vuole più, è questo il senso? Assolutamente, non lo vuole più perché hanno capito che l'allenatore sta cercando altre motivazioni, ha capito che a Liverpool non può portare avanti il progetto che aveva in mente. È un allenatore che costa moltissimo, e quindi l'unico modo per liberarsi entrambi, e quindi Liverpool prendere la sua strada, una strada che sarà all'insegna dell'austerity, e lasciare Benitez la possibilità di puntare a quei traguardi che lui a cui ambisce, ecco, ha preso in mano la situazione il club e ha proposto questa rescissione, che ovviamente nelle prossime ore poi troverà un suo compimento, perché probabilmente parlavo questa mattina con alcune persone vicine al club. Ovviamente la liquidazione di Benitez sarà più alta dei 3-4 milioni che gli hanno offerto adesso, però ecco, nel giro di 2 o 3 giorni al massimo, forse anche prima, Benitez non sarà più l'allenatore del Liverpool, e a quel punto potrà guardarsi attorno e valutare le offerte che gli verranno o che gli sono già state recapitate. Sì, in questa linea dell'austerity che il Liverpool si prepara ad inaugurare, cosa c'entrano le stelle? Torres, poi Gerrard, poi tutti gli altri top player che ha il Liverpool. Per quanto riguarda Torres, il suo futuro non è legato al futuro di Benitez, quindi sia che Benitez restasse, un'ipotesi molto improbabile, sia che partisse, ecco, la scelta di Torres non dipenderà dalla permanenza dello spagnolo quanto dai piani della società. Se il Liverpool per i prossimi 2 o 3 anni deciderà di rimettere a posto i conti e quindi di non spendere, a quel punto Torres potrebbe partire. Se viceversa ci fosse un rapido cambio di proprietà, il Liverpool è in vendita per una cifra che si aggira su 600-800 milioni di sterline, ecco, trovasse il Liverpool un nuovo proprietario che portasse capitali freschi, a quel punto Torres potrebbe anche decidere di restare. Torres ha già avuto un'offerta concreta, Torres e anche il Liverpool, dal Manchester City, un'offerta che non interessa a Torres. Torres vuole giocare in Champions League. Da quello che ho capito io, anche le eventuali offerte che gli arrivassero dall'Italia, Juventus e Inter nella fattispecie, non lo intrigano particolarmente. Ci potrebbe essere una soluzione Premier League, cioè il Chelsea non ha mai nascosto di essere eventualmente interessato. Ancelotti nella sua ultima conferenza stampa di fine campionato aveva detto che ovviamente gli sarebbe piaciuto e non poco allenare Torres. In quel caso lo spagnolo potrebbe essere interessato, oppure seguire anche la pista Barcellona. Qualora il Barcellona non riuscisse a prendere Fabregas, ieri è stata rifiutata l'offerta di 33 milioni di euro che il Barcellona ha presentato all'Arsenal, sì. Ecco, qualora il nuovo presidente non riuscisse a portare come, come dire, biglietto da visita l'acquisto di Fabregas, a quel punto potrebbe ripiegare insomma, non è il termine giusto, però potrebbe puntare su Torres, soprattutto se riuscisse a mettere sul mercato Ibrahimovic, che invece pare per il momento non esserlo sul mercato. Questo lo vedremo. Intanto, certo, il nuovo presidente si presenterà del Barcellona, si presenterà come tradizione con un grande colpo, e chissà se con lo stesso allenatore, perché non sono così convinto. Però tra pochi giorni si insedia il 13 e quindi da lì in poi lo scopriremo. Grazie a Lorenzo Muso dall'Inghilterra. Dunque, torno a parlare con gli ascoltatori volentieri. Fausto da Lodi, Giovanni, provincia di Pavia, Maurizio da Bari. Buongiorno Fausto. Sì, buongiorno signor Genta. Io volevo fare un appunto su Benitez. Sì. Io, a parte vincente, perdente, che questo è tutto relativo, però non ho visto lo stare per me, previsto come una squadra un attimino incostante, mentre l'Inter in questi anni ha fatto della costanza proprio la sua bandiera. Sì. E poi per quanto riguarda non ho sentito il discorso all'inizio lì di Milito, Higuaín, così, però se arrivano delle offerte è anche giusto magari vendere e ottenere il più possibile, di modo che magari tra un 3 anni si può pensare di arrivare ancora in finale e vincere la Coppa. No, sono d'accordo con lei, Fausto. Dice cose sensate. Quello che non ha sentito all'inizio è semplicemente una voce che ci ha riportato Gianluca Di Marzio, ma non so se ne ha buttato quanto vera. Di un Real che potrebbe offrire 30 milioni più Higuaín, oppure l'Inter avrebbe detto: volete Milito, dateci 30 milioni più Higuaín. Forse era così, e allora a quel punto sarebbe giusto e corretto pensarci. Quanto a Benitez, credo che la perplessità dell'Inter, se l'Inter ha perplessità e se l'Inter davvero vuole prendere Benitez, siano legate proprio al rendimento ondivago del suo Liverpool, soprattutto sul fronte interno, soprattutto sul fronte del campionato. Però non dimentichiamo come il Liverpool, insomma, dal punto di vista dell'organico, sia sempre stato in questi anni un gradino dietro rispetto a Chelsea e Manchester United. Non era in sostanza la squadra più forte d'Inghilterra come organico. Giovanni Pavia, buongiorno. Buongiorno signor Genta, senta, mi interessava avere un parere su Dunga come allenatore dell'Inter. Dunga? Sì. Questa è nuova, potrebbe essere... Sì, no, ma però non entra nella rosa, non entra nella rosa che circola in questi giorni, nel senso che aggiunge un fronte nuovo, o no? Sì, lui sta già allenando dei campioni come Maicon, Giulio Cesare e Lucio, quindi potrebbe essere un'idea anche Dunga, insomma, allenatore che però non mi pare abbia grandi esperienze di club, anzi non le ha, quindi questo potrebbe essere un problema, insomma. Non saprei dire. Io non andrei ad azzardare una scelta di questo tipo con un selezionatore che coi club non ha appunto esperienza. Maurizio Bari, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Dica. Niente, io mi riallaccio un po' al precedente ascoltatore in merito al possibile successore di Mourinho. Sì. Ho sentito parlare di Zeman varie volte, però vista la sua perdurante assenza dal campionato italiano mi chiedevo se il suo è un nome fatto tanto per far numero o se in realtà ci può essere un interesse dell'Inter, anche perché dal mio punto di vista è uno dei pochi allenatori che, almeno per quanto riguarda il carattere e la capacità di gestire lo spogliatoio, si assomiglia di più. Sì, ma come detto prima, l'Inter non sta cercando un clone di Mourinho. Mi sembra che l'identikit che ha fatto Moratti, cioè quelle caratteristiche che Moratti ha detto dovrà avere il prossimo allenatore dell'Inter, mi sembra che da sole escludano Zeman. No, Moratti ha detto: voglio un allenatore che sappia come si fa a vincere la Champions League, voglio un allenatore top per un club campione d'Europa. Questo di fatto esclude, mi pare, Zeman, che sarebbe un'ipotesi nulla più che suggestiva. Non mi sembrerebbe una grandissima idea quella di Zeman, però anche qui siamo nel campo delle opinioni personali. Restano appunto quelle parole di Moratti che escludono questa pista. Allora, nei playoff del calcio Serie B, Torino Sassuolo 1-1 ieri, il Brescia che prenota la finale vincendo 1-0 a Cittadella. Nei playoff del basket invece Milano che fa il colpo a Caserta. Io saluto e ringrazio Carlo Recalcati. Buongiorno Charlie. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai? Tutto bene? Bene, sì, sì, bene. Senti, bella partita ieri Milano, che mi ha sorpreso anche dal punto di vista estetico, se mi permetti. Credo che abbia sorpreso tutti, perché è una Milano nuova. Sì. Una Milano che si è presentata a questi playoff con delle novità che non aveva ancora mostrato. E ieri sera ha giocato una bellissima pallacanestro e ha battuto Caserta usando quelle che sono state le armi di Caserta per tutto il campionato, quindi la capacità di avere un'organizzazione e all'interno delle individualità che sanno poi risolvere molti problemi. È stato così con Monroe, è stato così con Aldo, e quindi è una Milano che si propone per questi playoff con una immagine nuova, sicuramente più spettacolare, più divertente, e quindi adesso vediamo cosa succede in questa serie innanzitutto. Senti Gianni, io però vado con il mio amico Dan Peterson. A me non piace tantissimo vedere una squadra che si fa il maquillage alla vigilia dei playoff, che ha vissuto una stagione molto diversa. È chiaro che Arnold e Monroe ieri hanno giocato una partita straordinaria, non possono essere sempre giocatori così. Al di là di questo, No, io sono assolutamente d'accordo. Io infatti credo di essermi anche sbilanciato, sì, come fa solitamente Dan nei pronostici all'inizio di questi playoff sulla serie, dove sono convinto che una squadra come Caserta, che inizia con una sua identità e che porta avanti un certo lavoro e che quindi gode di un lavoro alle spalle, alla fine anche nei playoff probabilmente venga premiata. Però è anche vero che insomma il nostro mondo, la nostra pallacanestro, ci ha abituato anche in altre occasioni dove un colpo di genio, diciamo una novità, un'intuizione nel cambiare volto a una squadra ha dato dei risultati. Insomma, era parecchi anni che non succedeva questo, non lo so se succederà anche questa volta, però sicuramente è un dato che va registrato questo. Gianni, si è molto parlato di quel trash talk continuato tra Jumaine Jones e Hall nella partita di ieri, se ne sono detti di tutti i colori in campo come spesso fanno gli americani. Da una parte Buchi ha detto cose che succedono e che restano sul campo, gli americani sanno che si fa così, punto e basta. Dall'altra invece Pino Sacripanti ha detto vorrei che Jones venisse un po' più tutelato, che è stato insultato tutta la partita. Questo siparietto, questo episodio, innanzitutto credi sia replicabile nelle prossime partite? Credi che vedremo ancora scintille tra quei due da un lato, e dall'altro lato come valuti questa scenetta? Bah, insomma, io credo che obiettivamente Jumaine Jones sia caduto nel tranello, sia vaccinato, e quindi insomma un giocatore che ha grandissima esperienza a livello internazionale, insomma non credo che sia caduto nel tranello. La cosa gli è piaciuta, insomma, chiaramente le cose le avrà sentite, ne avrà dette. Credo che, voglio dire, vada archiviata in quest'ottica qua. È chiaro che un giocatore deve sapersi anche conoscere, quindi deve sapere se lasciandosi andare a atteggiamenti di quel genere la sua concentrazione è sempre massima, oppure se ha bisogno invece di stare un pochino di più sulle sue per mantenere una certa concentrazione. Credo che insomma questa vada effettivamente vista in quest'ottica qua. Probabilmente sia Milano che Caserta, in una serie che comunque potrebbe essere lunga, avranno bisogno di avere non solamente Hall o Jumaine Jones nelle varie partite, ma altri protagonisti. È chiaro che Jumaine Jones, per quanto riguarda Caserta, ha una valenza sicuramente superiore rispetto a Hall nell'economia del gioco di Milano, e quindi certo, dei due chi si deve augurare che qualcosa cambi sia sicuramente Caserta. Ah, no, non c'è dubbio, e io mi auguro che questo duello, queste scintille vadano avanti per tutta la serie, perché a me personalmente piacciono, non so cosa ne pensate. No, ma voi, io credo che facciano parte, fanno parte del gioco, del gioco, dello spettacolo. Ma certo. I giocatori sono giocatori professionisti, credo che ognuno debba essere anche capace di tutelarsi. Insomma, non credo che sia una situazione dove l'arbitro posso intervenire più di tanto. Anzi, nelle scaramucce non deve intervenire nel momento in cui non si alza le mani, nel momento in cui rimane all'interno di una correttezza dal punto di vista agonistico dal punto di vista fisico. Ma certamente. Per cui, insomma, credo che sta poi alla, proprio alla capacità, alla maturità dei singoli e della squadra poi di saper assorbire anche questo. La tua Cantù come la vedi? Stasera gara 2, nella prima gara... Gara 2, gara dura, però Charlie, nella prima serie, nei quarti, Siena aveva giocato una grandissima partita in gara 1 contro Treviso con un risultato analogo e poi era stata molto combattuta quella serie. Sì, questo è vero, però io credo anche che ci siano poi delle avversarie che sono particolarmente ostiche. E la Benetton probabilmente l'aveva dimostrato anche nella stagione regolare, era una squadra che ha creato sempre qualche problema a Siena. Non mi sembra che sia successa la stessa cosa con Cantù, almeno mi sembra proprio di no. E poi ti dico, mi sembra che Cantù abbia speso veramente tanto nella serie con la Virtus, e poi Siena, paradossalmente, è chiaro che Siena non tirerà con il 70% da 3 come ha fatto in gara 1, però insomma Siena ha tante altre risorse da poter mettere nella partita, sì. E quindi credo che insomma il pronostico verrà rispettato. Resta il fattore P Anella, dove la serie si sposterà sabato. No, ma io credo che veramente Cantù giochi su questo, sul fatto che vuole assolutamente vincere una partita. E quindi a Pianella sarà probabilmente anche un'altra storia, ci saranno diverse tensioni, ci sarà probabilmente anche un diverso atteggiamento, però insomma credo che appunto Cantù ha vinto il suo campionato, la sua stagione è stata fantastica. Cosa manca a Cantù? Manca la soddisfazione di poter battere Siena in una singola partita. Grazie Charlie, a presto. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a Carlo Recalcati, un abbraccio. Io prima di chiudere il programma vi aggiorno, come diversi ascoltatori a ragione chiedono, sul match di Francesca Schiavone. Partita molto equilibrata, non ci sono stati break, siamo 4 pari nel primo set. Schiavone sta servendo contro Dementieva, incredibilmente equilibrata la partita perfino nel numero dei punti delle due giocatrici, 30 a testa prima di quest'ultimo 15 della Schiavone, anzi della Dementieva, che conduce ora 30 a 15, quindi 15-30 nel nono gioco di questo incontro. Noi ci fermiamo qui, domani torniamo con l'ultima puntata di Palla Spicchi, ultima puntata del venerdì e per questa stagione naturalmente. Vi ricordo che domani sarà con noi Fabrizio Frates, uno degli allenatori dell'anno certamente con la sua Montegranaro, per chiudere appunto la stagione di Palla Spicchi. Il basket su Radio 24 non sparisce certo, ma resta anche in tempo di mondiali, come continuo a ripetere tutti i giorni, ogni domenica dalle 20:30 alle 21 Palla Spicchi canonico fino all'assegnazione dello scudetto, e poi cominceranno naturalmente i mondiali dalla settimana prossima, insieme ai mondiali i nostri speciali. Ci sarà Gigi Garanzini da lunedì e dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15, e ci sarà il sottoscritto ogni sera dal lunedì al venerdì in tempo di mondiali dalle 21 alle 22:30 per vivere insieme questi campionati del mondo, anche se oggi mi pare che il mercato abbia discretamente suscitato la curiosità degli ascoltatori. Non lo trascureremo, nemmeno in epoca di mondiali, il calciomercato. Grazie a Franco Piantanida per il lavoro in redazione, Fabio Cantadori in regia, ci sentiamo domani.